Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Lei gli ha cambiato la serratura di casa? Madonna mia, e voi? Vabbè, non aveva le chiavi, ha dormito da noi. Dormito? Ha parlato tutta la notte con Carlo? Sì, però dai, lui insomma aveva ragione, una cosa così lei non la doveva fare prima. Infatti lui si è vendicato subito. Ha aspettato che lei non ci fosse, ha chiamato i pompieri dicendo che aveva perso le chiavi. Oh, gli ha svuotato la casa! No! Sì! Ma si è portata via pure i surgelati dal freezer. Ma dai! Sei con la scena del rientro. Ma pensa lei! Come ci piace parlare dei fatti degli altri, però c'è un prezzo. Chi spettegola è generalmente sempre mal visto e può anche essere preso talvolta dai sensi di colpa. Ma c'è una buona notizia. Una ricerca ci dice che c'è una forma di pettegolezzo che non solo è sana, ma fa bene alla salute. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Personality and Social Psychology, il pettegolezzo a piccole dosi può essere un ottimo strumento antistress. Questo accade perché il poter comunicare ad altri e il condividere opinioni sul comportamento di terze persone avrebbe l'effetto di allentare la tensione a livello individuale e sociale. Per i ricercatori dell'Università della California che hanno curato lo studio, il gossip, quindi, aiuta ad essere più sereni con se stessi, perché diventa una vera e propria valvola di sfogo dei sentimenti negativi e delle ansie generate da specifiche situazioni. E in linea con noi è tornato a trovarci il dottor Luigi Ballerini, medico, scrittore e psicoanalista freudiano. Buongiorno dottor Ballerini, bentornato. Grazie, buongiorno. A piccole dosi può essere anche un ottimo antistress. Ma io sottolineerei piccole. A piccole dosi, sì, perché è diverso se io passerò la vita a farmi i fatti degli altri. Per cui se passo la vita a curiosare cosa accade e poi per andarlo a riferire a qualcun altro, non è più in piccole dosi e certamente così non farà bene. E poi, dottor Ballerini, parlare di un altro non è necessariamente un pettegolezzo. Ma no, quello no, perché dipende molto. Allora, di solito è lo sai che, quando lo sai che Martina o Giovanni ha fatto o si è mossa in questo modo, di per sé può essere anche proprio il desiderio di condividere una scoperta, oppure vogliamo condividere la nostra opinione, farci aiutare da un altro a farci un'idea, per cui può essere del tutto positivo. Certo che se l'intenzione invece è rovinare la reputazione di un altro oppure per invidia, ci muoviamo completamente su un altro campo. Ma quindi è il pettegolezzo, bisogna chiarirci le idee. Ecco, no? Il pettegolezzo buono che ci fa bene. È il pettegolezzo buono che in realtà vuol dire raccontare a un terzo qualcosa che riguarda un'altra persona e scambiarci le idee su, insomma, farci un giudizio anche noi, per cui di per sé questo non va neanche bene, non va neanche male, anzi addirittura può aiutarci a chiedere le idee. Insomma, la morale è che muovere la lingua fa bene, dottor Ballerini. Sì, muovere la lingua bene fa bene. Bene fa bene. Allora muoviamola, grazie. Buongiorno, dottor Ballerini. Arrivederci, grazie. Muoviamola, sciogliamola. Chi ama, chiama chi. Sì. Chi ama, chiama chi ama. Chiamami tu che chi ami, che chi ami, chiami. Arriviamo. Chi ama, chiama chi ama. Chiamami tu che chi ami, chiami. Chi amo, chiamerò se tu non chiami. Chi ama, chiama, chi ama, chiamami tu che chi ami, chiami. Chi amo, chiamerò se tu non chiami. Chi ama, chiama, chi ama, chiamami tu che chi ami, chiami. Chi amo, chiamerò se tu non chiami. Proviateci anche voi, 800 24 00 24, uno sciogli lingua, e di lingua parliamo oggi insieme al professor Luca Levrini, che è qua in studio con me, odontoiatra, presidente del corso di laurea in igiene dentale all'Università degli Studi dell'Insubria. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta. Non mi sono neanche impapperata, visto? A proposito, questo sciogli lingua, a sentirlo, aiuta. Professore, un tempo ci facevano tirare fuori la lingua e bastava un'occhiata per avere un quadro generale della situazione. Adesso penso che sia solamente i dentisti a far tirare fuori la lingua. No, i dentisti e magari anche qualche medico di base. Tirar fuori la lingua per guardarla è una cosa fondamentale, perché la lingua è una porta diagnostica, è un modo straordinario per capire come stiamo, per capire come staremo. adesso e in futuro. Effettivamente però è una pratica un po' in disuso e quindi varrebbe la pena che ognuno di noi a casa l'autoispezionasse, se la guardasse allo specchio, ed farlo è una cosa molto allora, semplice. Allora ci impresta, come dico sempre io, il suo occhio clinico, tiriamo fuori la lingua, non possiamo farlo ora, magari ci ricordiamo di farlo stasera, oppure quando andiamo in bagno a lavarci i denti dopo pranzo, e parleremo anche di questo momento così delicato per il nostro smalto. Tiriamo fuori la lingua e che cosa guardiamo? Il colore, la forma, la presenza, la superficie? Guardiamo tante cose. Innanzitutto come tirarla fuori, perché non si può semplicemente tirare fuori. No. Bisognerebbe prendere una piccola garzina e prenderla attraverso la punta della lingua per tirarla fuori un pochino attivamente. Perché, come vedremo, se avremo tempo di farlo, le zone da osservare possono essere anche quelle più profonde, in particolar modo nei suoi bordi. Ad ogni modo, la prima cosa che si fa nel momento in cui tiro fuori la lingua attivamente è quella di saperne riconoscere almeno le due parti fondamentali. Il dorso, per esempio, la parte frontale, e i bordi, perché hanno caratteristiche completamente diverse. I bordi, per esempio, sono più lisci. Sono completamente lisci e molto rosa. Mentre il dorso, quello che vediamo, ha un rosa un pochino più acceso e in alcune parti può assumere una colorazione un pochino chiara, ma soprattutto è rugosa la lingua. Poi impariamo anche a guardarla sotto, nel senso che la lingua non bisogna guardarla solo frontalmente e nei bordi, ma bisogna anche l'altro lato della medaglia, il dorso posteriore della lingua, perché c'è un pavimento la lingua, e anche quello bisogna imparare a guardarlo. Possiamo osservare tante cose, fra tutte forse il colore inizialmente è la cosa più interessante, a mio giudizio, perché se diciamo che è un rosa acceso, vedere che si trasforma nei colori, in particolar modo bianco, potrebbe essere una cosa da osservare e comunque da riportare. Ecco, chi può, segua queste indicazioni del professor Levrini, magari siete a casa o fermi ad un semaforo, sbirciatevi la lingua, si può, solamente se siete rigorosamente senza fermi. Senza garza, così, alla guerra come alla guerra, con la mano. 800 24 00 24, bordi e superficie, quindi il colore ci dice molto della salute. Sì, molto della salute e molto di quello che sta succedendo, e quindi è importante valutarlo. Per esempio il bianco può ricondurre a molte cose. Uno dice cattiva digestione. Sì, può essere un problema gastrico, può essere reflusso, può essere stipsi, ma sempre più frequentemente potrebbe essere semplicemente, questa è una cosa banale che non è assolutamente grave, la patina della placca dentale e il deposito di stratificazione delle cellule che noi abbiamo in bocca, e quindi la necessità semplicemente di pulirla questa lingua. Un po' sporchetta, insomma. Può essere bianca per la candidosi, può essere bianca per la scarlattina, può essere bianca per molti motivi. In genere mai dei problemi gravi, sono sempre dei problemi fantastico, abbastanza banali. Quindi se avete la lingua bordo, bianca però, potete chiamarci. Di dorso, stiamo parlando del dorso. Diverso quando diventa rossa, quando diventa rosso accesa, è un problema di infiammazione, si parla tant'è di glossite, ite, suffissoite, quindi l'infiammazione della lingua. Diventa non solo rossa, ma diventa anche liscia, perché questo tipo di infiammazione va di fatto a annullare, fa scomparire le papille che definiscono invece la rugosità della lingua. Al riguardo è interessante fare riferimento a una conformazione particolare della lingua, che è la cosiddetta lingua carta geografica. Sono delle macchie lisce, circolari, dove proprio in quella zona il tessuto linguale si è infiammato. È una cosa frequente, assolutamente benigna. Non si può fare nulla o si deve fare qualcosa? Non bisogna fare nulla, semplicemente aspettare, perché sono delle manifestazioni autolimitanti nel tempo. Possono dar luogo a dei piccoli e transitori fastidi, quali bruciori o sensazioni al gusto alterate. Questo era il dorso, cioè la parte... E siamo solo al dorso! Certo, perché c'è il bordo, che è la zona più interessante da osservare, più importante da osservare. Ecco, guardiamola con attenzione. Innanzitutto è liscio, abbiamo detto. È liscio ed è rosa, completamente rosa. Può assumere delle due tipi di colorazioni diverse, anche qua o bianche e rosse. Dico che sono importanti da analizzare, perché nel momento in cui diventassero in alcune zone bianche o rosse, possono portare all'ipotesi di situazioni ben più gravi rispetto a quelle che riscontriamo nel dorso, le cosiddette precancerosi, cioè degli stadi che sicuramente meritano attenzioni perché potrebbero evolvere in situazioni più conclamate. Sì. Quali sono queste due situazioni? Una si chiama leucoplachia. Sì, che c'è. E si riscontra proprio nel bordo della lingua, ed è una tramatura biancastra che non si può spostare, che non si può asportare. Come se fosse una rete, vero? È come esattamente come fosse una rete. E quando e dove succede? Il dove è proprio nella parte più profonda del bordo. Questo è il motivo per cui varrebbe la pena, in particolare con gli anziani, portassero fuori la lingua con la garza per vederla a destra e a sinistra, e laddove ravvedessero una variazione di colore dal rosa, sicuramente si riferiscono a uno specialista. L'alternativa è il rosso. Il rosso è ancora più grave e manifesta quella che si chiama eritroplachia. E quindi attenzione, questa vogliamo sottolinearla, attenzione a questi due colori in questa parte liscia e rosata della bocca, che sono i bordi, che sono il rosso e questa rete bianca. Quindi in questi casi non vi dico, cioè bisogna parlare con uno specialista. Non è un tumore, ma no, può essere una fase che può predisporre in più rispetto a un tessuto sano a questa forma. Ecco, vogliamo sottolinearlo perché non c'è abbastanza attenzione a quelle che, professor Lebrini, sono le lesioni precancerose nella bocca. Quando si parla di bocca si parla generalmente, giustamente, di denti bianchi, di gengive rosate, ma si perde sempre questo dettaglio che può fare la differenza. Quindi occhio alle lesioni che abbiamo in bocca. Adesso stiamo ispezionando la lingua, ma le lesioni anche che compaiono nelle pareti della nostra bocca, quindi quelle che noi chiamiamo afte, anche lì mi raccomando un occhio di riguardo, perché se la lesione persiste nel tempo, un saltino dal medico bisogna farlo. Assolutamente sì, è importantissimo. 800240024, professor Lebrini, lei ci sottolineava che il suffisso ite deve subito farci pensare ad un'infiammazione, e noi abbiamo spesso, e ci sono tante persone che mi scrivono, che hanno la sensazione di avere il fuoco in bocca. Capita in un punto specifico, ad esempio quando abbiamo le afte, ma a volte la sensazione coinvolge proprio la bocca tutta intera. In questo caso si parla di sindrome della bocca orente, giusto? Assolutamente sì, sindrome della bocca orente. La sindrome della bocca orente non è altro che la percezione intensa di bruciore, in particolare sulla lingua, ma anche in altre parti della bocca. Affligge una donna su tre dopo la menopausa, perché c'è una sorta di degenerazione delle fibre nervose, ma poco ci importa. In questi casi, nel momento in cui in particolare la donna è afflitta da questa limitazione, che è sicuramente gravosa su di lei, che è proprio una sorta di bruciore, è un bruciore intenso, sì, che può anche limitare spesso nel mangiare, nel parlare, nel deglutire, deve escludere le patologie che possono portarla, tipo il lichen, la candidosi o lo stesso reflusso gastroesofageo. Una volta esclusa, niente, ammettere che esiste questa sindrome da bocca urente e semplicemente aspettare, perché è una forma benigna e transitoria che nel giro del tempo, magari qualche anno, porta alla riduzione per l'adattamento fisiologico del dolore. Quindi la buona notizia è che passa, ma nel frattempo abbiamo un'altra buona notizia, perché il professor Lebrini ci dà qualche indicazione. Ad esempio, cosa si può utilizzare? Può sembrare curioso, ma in realtà la capsaicina, che di fatto è peperoncino, aiuta in particolar modo. Ci sono delle soluzioni ad hoc, ma al limite potrebbe semplicemente essere utile utilizzare dell'olio al peperoncino. Dove si l'olio al peperoncino si compra al supermercato. Sì, che è quello con cui noi che aggiungiamo al sugo, piuttosto che quello che si usa in cucina. Assolutamente sì. Per 20 giorni, 3-4 volte al giorno, sulla zona che si sente particolarmente urente. È un atto di grande coraggio e di grande fiducia, perché uno sente il fuoco e dice: mi vado a mettere ancora il peperoncino, fuoco su fuoco. Ma è proprio questo che aiuta. Tant'è che nelle popolazioni nelle quali il peperoncino viene usato e abusato, questa forma è molto minore rispetto a un paese quale il nostro. Perché poi la bocca va tutta a fuoco e non si sente più il dolore. È certo. È vero, è un meccanismo così. 800 24 00 24. E la mia non è propaganda, amici. La mia non è propaganda, è un'osservazione della realtà, no? che fai? Me l'ha data Maurizio Crozza. Ho detto: che consiglio mi dai? Portati l'acqua. Ciao, Maurizio. E ci sono delle situazioni in cui rimaniamo a bocca asciutta, nel vero senso della parola. A voi è mai capitato? Vi capita quando? 800 24 00 24, come sempre potete seguirci su Facebook e su Twitter. Di solito succede quando siamo particolarmente emozionati, stressati, agitati. In linea con noi abbiamo il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano. Buongiorno. Ah, buongiorno a tutti voi. Sudano le mani e la bocca si secca. Dura, però abbiamo degli elementi. Ad esempio, vista l'ora, è giusto, per tornare a questo rapporto profondo che esiste, una bella interazione tra la parte della lingua, l'odore, i sapori, eccetera, e questa acquolina in bocca. Adesso faccio un test lì a tutti quelli che stanno ascoltando e dico: provate a immaginarvi in questo momento un cucchiaio d'aceto in bocca. E so che la risposta di chi, anche, vedi, in questo momento ho davanti, sì, una persona che ha subito deglutito, perché c'è questa correlazione, ad esempio, tra certi tipi di sapori e immediatamente la produzione di saliva, che quindi rende un momentino le cose più semplici. Questo torna, tra l'altro, a è fantastico. Quindi, scusi, dottor Speciani, quando avvertiamo la sensazione di secchezza in bocca, pensiamo al cucchiaio di aceto e come... Quello può essere, ad esempio... Ognuno può pensare al suo... È una tipica situazione, la uso spesso in pratica clinica quando cerco di far deglutire le persone per palpare e sentire le tiroidi, e di fronte alla persona, dopo due volte che gli dici deglutisci e questo rimane lì, dice non più saliva, gli dico un cucchiaione d'aceto in bocca e slurp, e immediatamente possono deglutire. Però la cosa bella è che intanto faccio riferimento al peperoncino e alla capsaicina di cui ha appena parlato il collega, ed è interessantissimo perché in realtà la capsaicina mima proprio la funzione di una delle comunicazioni, di una delle sostanze immunologiche che comunica tra cervello e sistema immunitario, quindi identifica una sorta di segnale, come effettivamente diceva, per cui possiamo usarla con serenità. Però c'è un dato che vorrei invece buttare lì come stimolo in questo rapporto con l'odore, con la percezione dei profumi che abbiamo, che sono profondamente vicini al nostro cervello, che c'è un lavoro bellissimo fatto da Janssen, che è un olandese, è pubblicato di recente su Eating Behavior, in cui fondamentalmente, se noi, ad esempio, quelli che sono a dieta, possono usare il gusto, l'odore, il sapore per aiutarsi, sì. Allora, se noi annusiamo intensamente un cibo, nel senso che quindi potremmo anche immaginarci una scenetta in cui le persone discutono e dicono buono questo profumo, sì, abbiamo aggiunto un pochettino di rosmarino, no, in realtà era un po' di salvia, eccetera. Questa cosa consente di mangiarne molto meno, come se il corpo si saziasse. Il lavoro è stato fatto bellissimo perché sono state comparate delle persone che avevano una sola annusata, come sì, dire, quella che fa venire la colina in bocca, mentre le altre annusavano a lungo in modo prolungato, ed era palese la differenza tra lo stimolo di chi aveva solo la colina in bocca e quindi stimolava la fame e poi mangiava abbondantemente, e di chi invece lo stesso cibo, annusato come per conoscerlo, per approfondirne la conoscenza, in realtà consentiva di mangiarne meno. Quindi questo è un altro trucco che possiamo... Quindi se siete a dieta annusate, ma annusate ripetutamente, perché No, io non voglio vedere al ristorante gente mangia... che tira su col naso. A casa. Io dico gustiamo il cibo, sentiamolo con tutti i nostri sensi, perché c'è un'interazione sempre completa tra tutto. Perché si mangia con gli occhi, ma anche con il naso. Assolutamente, vedi, questa è proprio una delle... Mi piace come frase conclusiva, direi che ci sta perfettamente, può arrivare a dire che possiamo dimagrire masticando e annusando, no? Quindi questo è un dato positivo da tenere presente per tutti, che adesso inizia la stagione in cui la gente deve smaltire i chili natalizi, e quindi è un consiglio, un suggerimento adeguato. Grazie, dottor Speciani. Grazie a tutti voi, a presto. Abbiamo Roberto dalla provincia di Caserta, buongiorno. Buongiorno a lei e grazie per l'opportunità che mi date. Senta, io volevo chiedere al professore, ho notato non da adesso ma da anni, che sulla mia lingua ci sono due piccoli tagli, cioè a partire dalla metà della lingua fin quasi alla punta, che è come se fosse un taglio così, però io non noto né accuso problemi o che... Ma sì, da che cosa è dovuto, da che cosa dipende e che cosa mi può comportare? Non lo so, anche magari nel gusto, nelle cose così. Grazie Roberto. Professor Levrini. Buongiorno. Di fatto la lingua può avere un aspetto anche fissurato, si definisce, cioè con dei solchi che possono essere anche profondi. Non è nulla di grave, è una normalità, è semplicemente una variazione rispetto alla norma. L'unica cosa che potrei suggerire in questo caso è una pulizia profonda della lingua, perché proprio in queste fissure che la placca dentaria e le cellule di sfaldamento cui riferivo prima si depositano e portano a delle piccole infiammazioni che possono essere dolorose. Essere e benessere. Se avete la lingua, 800 24 00 24, chiamatela, muovetela, parliamo di lei e non solo, parliamo anche di acquoline in bocca, di bocca che si secca, di bocca che brucia, come per la sindrome della bocca urente. Nadia, buongiorno, ci chiama da Bologna, sentiamo che cosa ha da raccontarci, buongiorno a lei. Buongiorno, buongiorno, grazie dell'opportunità. Volevo porre questa domanda. Ho mio figlio che presenta le caratteristiche della lingua carta geografica a 6 anni ed è da 3 anni che osserviamo questi aspetti. La dottoressa infatti parla di lingua carta geografica. Mi sembrava di aver capito dalla vostra trasmissione che dovesse essere un fenomeno temporaneo, invece permanente, ecco, e quindi volevo sapere se per caso è normale, se invece prelude invece una composizione della sua lingua come la mia, che invece, non solo se ho capito bene, tissurata, cioè presenta questi solchi. Grazie. Grazie a lei, Nadia. Nadia, perfetta, Fantastico. Allora, no, questa carta geografica va e viene, ce l'abbiamo sempre, che succede? Può esserci sempre, e in questo caso espone a uno stato allergico di tipo anche atopico, ma è difficilmente correlabile alla lingua fissurata, sono due fenomeni completamente diversi. Cosa vuol dire? Presume uno stato allergico? Cosa vuol dire questa cosa che ci ha detto, che io non ho capito? Può essere che i soggetti più predisposti sono soggetti con fenomenologie allergiche, diciamo ad ampio spettro. Quindi la lingua ti dice anche un po' se sei allergico, esatto, se sei più sensibile. Assolutamente sì. Non preoccupiamoci nei confronti della lingua carta geografica, diciamo cronica, perché comunque non dovrebbe, adesso non ci è stato detto, esporre a nessun tipo di sintomo. Sono piuttosto quelle transitorie che danno dei sintomi tipo bruciore, e queste sono sicuramente transitorie, nel senso che vanno via assieme al dolore. Quando si vede proprio in modo chiaro questa lingua carta geografica, sicuramente la persona, il possessore di questa lingua, magari fa fatica un pochino di più a deglutire, a mangiare magari cibi un pochino più acidi, dagli agrumi e pomodori, e poi passa. L'importante è, come si dice, che la lingua rimanga collegata al cervello, però a volte sembra che questo collegamento sia difettoso, si inceppi o sia momentaneamente interrotto. Niente paura, come si dice, ci scusiamo per il disagio, il servizio sarà riattivato al più presto, anzi subito, dato che in linea con noi c'è il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo e presidente di Assomensana. Buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletta, e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Professore, a volte pensiamo una cosa e ne diciamo un'altra. Eh già, che cosa succede? Succede che, siccome le parole che abbiamo in archivio sono posizionate su una rete dove ogni nodo corrisponde a una parola, e queste parole sono vicine tra di loro in base al significato che hanno. Ad esempio, la parola pesce è vicino a mare piuttosto che vicino a casa. Sì. E le parole, quando vogliamo trasformare un pensiero in una comunicazione, interviene il meccanismo del piglio, cioè c'è un meccanismo che individua le parole che trasformano il nostro pensiero, ma a volte capita che questo meccanismo di presa delle parole si sganci dal pensiero e prende parole diverse. Il giusto allineamento tra il pensiero e il linguaggio viene garantito dalla concentrazione, quindi a volte questo meccanismo si allenta un po', ma la buona notizia è che possiamo fare qualcosa per ridurre l'inceppamento. Certo. Ecco, se lei è d'accordo, Nicoletta, io proporrei agli ascoltatori di fare un esercizio per allenare la concentrazione. Sì, noi tanto siamo ormai abituati, professor Iannoccari, che lei ci fa lavorare, e quindi siamo pronti. Che esercizio possiamo fare? Allora, l'esercizio per potenziare la concentrazione sul linguaggio, e quindi evitare di ripetere le cose due volte, oppure sganciare il pensiero dalla frase, è quello di recitare l'alfabeto italiano al contrario, partendo quindi dalla Z verso la A, in meno di 10 secondi. Sì, non vale scriverlo come ho fatto io adesso e poi leggerlo al contrario, perché sennò non c'è esercizio, giusto? Esatto. Ecco. Allora, l'alfabeto al contrario, 800 24 00 24, se qualche ascoltatore vuole allenarsi con noi e quindi misurarsi, 10 secondi per ricordare l'alfabeto al contrario, professor Iannoccari. Questo può essere un esercizio. Può essere un esercizio, anzi, se qualcuno vuole chiamare per farci ascoltare la sua velocità. Sì. Questo esercizio è molto potente perché potenzia la memoria verbale, la concentrazione e sì, anche la velocità di linguaggio, per cui anche la capacità di prendere le parole che ci servono al momento giusto. Quindi con un esercizio facciamo tre cose. Esattamente, Nicoletta, è proprio così. Però, professore, ci sono a volte invece, non diciamo una parola per un'altra, la parola ci manca proprio. La parola ci manca proprio, sappiamo il significato, sappiamo che cosa vorremmo dire, ma non riusciamo a prenderla. Quindi è molto utile riuscire a prendere una parola che abbia lo stesso significato, quindi un sinonimo. E anche per questo può esserci un allenamento. Qual è? Che lo faccia fare subito al professore Levrini qua. No, lui sì, lui sì. Allora, mi dica, perché questo sull'alfabeto ci stiamo preparando, perché tra l'altro c'è un libro, perché ogni esercizio ha una sorta di corrispettivo. Per l'alfabeto abbiamo scelto dalla libreria di Essere e Benessere Il cervello compassionevole. Le piace, professor Iannoccari? Molto. Ecco, mentre vediamo a chi abbinare i segreti per parlare e capire il linguaggio del corpo. Che cosa dobbiamo fare, professore? Qual è l'esercizio per allenare quella capacità che ci permette di trovare la parola anche quando rimane intrappolata sulla lingua? Facciamo un esercizio di sostituzione, che è il seguente. Io vi propongo una frase e gli ascoltatori dovranno trasformare questa frase con un vincolo. Ossia, sì, allora, la frase è: un topolino correva su e giù sulla schiena di un leone addormentato. Sì. Che idea balzana. Un topolino correva su e giù sulla schiena di un leone addormentato. Ok. Bene, qual è la consegna? La consegna è di fare una frase che abbia lo stesso identico significato, quindi che riprenda il topolino, il su e giù per la schiena del leone che sta dormendo, ma utilizzando delle parole che non contengono la O. Ma come faccio? Topolino, come ce l'ha già? Io sono sicuro che gli ascoltatori sapranno trovare. Ah, ad esempio un ratto. No, ratto alla O. Alla O. Annaggia, qua ci vuole la libreria. Ok, io la passo agli ascoltatori. Un topolino correva su e giù sulla schiena di un leone addormentato. Bisogna dare lo stesso significato senza usare le parole con la O. Mi sembra più facile scrivere l'alfabeto e leggerlo al contrario in 10 secondi, ma il professor Iannoccari ritorna con noi a chiusura di trasmissione. 800 24 00 24. A proposito di Aquolina, professor Levrini, c'è un momento delicato, perché la nostra lingua, dopo che noi tutte le volte che mettiamo qualche cosa in bocca e che mangiamo o beviamo, qualcosa nella nostra bocca si altera, è il pH, e la nostra, tutta la salute della nostra bocca, soprattutto lo smalto dei nostri denti, è un pochino più a rischio. Quindi chiamateci, che cosa, se siete dei mangiatori, siete delle persone che spesso spiluccano, bevono caffè, mangiano la caramella, il pezzettino di grissino, 800 24 00 24, intanto che allenate le funzioni stimolate dagli esercizi del professor Iannoccari, perché parliamo di un tema molto importante che è il pH della nostra bocca. Essere e benessere. Allora, prima di parlare del pH della nostra lingua, che si altera, vero professor Levrini? Sì, cosa? Sì, si altera. Va giù, invece dovrebbe... Va giù e invece dovrebbe rimanere stabile. Il cosiddetto potere tampone della saliva, una delle tante funzioni che ha la nostra saliva. Non per niente ne produciamo quasi 1,5 litri al giorno. È proprio quello, il potere tampone, nel senso che tutte le volte che noi per esempio assumiamo un cibo o una bevanda dolce, il nostro pH da un valore che più o meno 6.8 va a un pH più basso di 5.5. È importante considerare questo abbassamento perché quando si va in questa zona di pH, diciamo, acido, si sviluppano i processi cariosi, ma non solo. Lo smalto perde la propria durezza e si va incontro a fenomeni di erosione, di perdita dello smalto. Spostando un attimo lui lo dice così in modo gentile e carino, ma la cosa che vi voglio raccontare è che prima di salire in studio col professor Levrini ci siamo presi un caffè al bar del Sole. Lui senza zucchero. Lui ha preso il caffè, io ho preso una spremuta da Essere Benessere. E lui che cosa mi ha detto? Lui mi ha guardato bene e poi lei cosa mi ha detto? Ti ho detto che il tuo pH sicuramente in modo vorticoso sarebbe sceso sotto la soglia. E quindi il suo smalto nei prossimi 40 minuti, perché sono già passata magari un'oretta, sarebbe stato in una situazione di crisi, una crisi che avrebbe vissuto da un punto di vista chimico, perché lo smalto sarebbe diventato più povero e quindi si sarebbe dissolto in questi 45 minuti. Ecco, ditemi poi quando uno dice bere una spremuta fa bene, mi è rimasta un po' qui. Sono tante le condizioni che abbassano il pH, non solo il cibo, sono tante, può essere anche... Prima ne parlavamo, può essere l'acido ascorbico, quindi le compresse di vitamina C, se tenute in bocca per lungo periodo, portano ad un abbassamento del pH. Ma non solo, le bevande zuccherate, tutte le cole, tutti i soft drink hanno una acidità. E non serve neanche lavarsi i denti subito. Anche il vino, purtroppo. E se mi lavo i denti subito, peggio. Beh, lavare i denti subito è peggio perché di fatto lo smalto è debole e quindi nel momento in cui lo sfreghi associ la non compattezza dello smalto all'abrasione meccanica dello spazzolino. È quindi suggeribile far cosa? Sicuramente limitare il più possibile l'assunzione di cibo o di zucchero durante la giornata. Non devo sorseggiare una bevanda zuccherata nell'arco di un'ora e mezza, due ore, perché in quel periodo il pH mi rimane sempre a livelli bassi. Rimedi, se ad esempio prendo quei chewing gum per pulire i denti, aiutano o non aiutano? Il rimedio sì, è utilizzare dei presidi che contengano o l'ossilitolo o il bicarbonato, in particolare il bicarbonato, perché questo effetto tampone a cui facevamo riferimento prima, cioè di mantenimento del pH dei livelli fisiologici, lo fa proprio il bicarbonato in modo naturale nella saliva. Il che non vuol dire sciacquarsi i denti con acqua e bicarbonato? Potrebbe anche significare questo. Ci sono dei prodotti che si iniziano a trovare in commercio, come nel nord Europa, che hanno questa funzione. E soprattutto, se uno proprio ha l'impellenza, il desiderio di lavarsi i denti, farlo quantomeno con dei dentifrici non abrasivi. Il mondo dei dentifrici si divide in quelli che di fatto hanno dei materiali abrasivi al loro interno rispetto agli altri, ad altri che invece hanno un alto potere abrasivo. Per esempio, buona parte dei dentifrici sbiancanti sono altamente abrasivi. Quindi lo smalto viene a ridursi in maniera importante. Il suggerimento è evitare di mangiare fuori pasto, se non quelle due volte classiche al giorno, e bere tanta acqua, perché l'acqua, ne parlavamo prima, la xerostomia, tutte queste forme di sindrome di bocca urente, aiuta sicuramente a idratare le mucose, idratare la lingua. Evitare tutte le bevande zuccherine fuori pasto, concentrarle in momenti particolari della giornata e aspettare almeno 30 minuti dopo questo momento prima di andare a spazzolare in modo vigoroso i denti. Altre condizioni che portano il pH a livelli bassi. I giovani sono particolarmente esposti. Perché continuano a bere bevande zuccherate solo. Assolutamente sì, e non solo. Dici bene. Fausto che ci chiama da Modena, e da Emanuela dalla provincia di Vercelli. Intanto ricordatevi il topo e l'alfabeto. Chi ci ha seguito lo sa. Fausto, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno Fausto. Volevo stupire questa cosa che mi tocca personalmente da alcuni mesi o da alcuni anni. Cos'è? Durante la notte ho questa secchezza della lingua, ma a un livello elevatissimo, addirittura mi sento quasi le papille gustative, potrei contarle una a una. e mi tocca bere tantissimo durante la notte, dalle 6-7 volte, e questo mi porta a svegliarmi, ad alzarmi. Bisogna a letto, fare pipì, sì, bisogna bere, poi uno se beve fa pipì, insomma. E via dicendo. Difatti è una, un tormento, una notte che... Esatto, è un tormento e ho provato di tutto, ho cambiato l'alimentazione, molte verdure, molta frutta, e non mangio più roba troppo salata o troppo condita o troppi fritti, niente bevande gasate. Ok, allora... mi è rimasto l'ultimo vizio, fumo, e questo so che dovrei eliminare anche quello. Fausto, si è già dato la risposta da solo, ma sentiamo il professor Lebrini se... Questa condizione si chiama xerostomia, secchezza delle fauci, e affligge di più le donne, è atipico che lo riferisca un uomo. Ad ogni modo, il suggerimento è quello, durante la giornata, di bere poco e frequentemente acqua, assolutamente non delle sostanze zuccherine. Delle gomme da masticare durante il giorno sono molto utili perché stimolano la produzione di saliva. Per quanto riguarda la notte, io suggerirei dei sostituti salivari, che sono dei gel mucoadesivi che vengono messi sulle guance. Si comprano in farmacia. Si comprano in farmacia. Costano cari. Non lo so. Sono dei sostituti salivari, però sono sicuramente efficaci perché di fatto rilasciano in modo progressivo le sostanze che simulano e sostituiscono in parte la saliva. Il paziente soggetto a xerostomia è sicuramente un paziente che durante la notte ha un sonno disturbato, perché questa secchezza... Quindi si mette come si mettono le lacrime artificiali nell'occhio secco, bocca secca, saliva finta. Saliva artificiale, non meglio in gel, perché il rilascio è graduale nel tempo, specialmente per chi dorme, è sicuramente la cosa migliore da fare. Abbiamo tempo per sentire Emanuela, che ci chiama dalla provincia di Vercelli. Buongiorno Emanuela. Buongiorno, sono Nicoletta. Buongiorno. Grazie per avermi chiamata. In effetti il signore di prima mi ha anche un po' preceduto, perché il mio problema è proprio questo. Io durante la notte, non dico tutte le notti, ma spesso e volentieri, mi sveglio all'improvviso e mi sembra più di avere la bocca incollata, la lingua incollata al palato. Con questa mancanza quasi anche di poter respirare, dico, oddio, cosa succede? Certo, perché la lingua è poi un muscolone, ha una forza terribile. E quindi Emanuela ripropone la formula, il problema dell'ascoltatore precedente di Modena, quindi saliva artificiale. L'unica cosa che potrei aggiungere, che magari si è capita dal discorso che avevamo fatto prima, è quello di curare in particolar modo l'igiene orale serale in questi pazienti, perché mancando la saliva manca l'effetto tampone, l'acidità potrebbe essere alta e quindi l'esposizione a fenomeni cariosi può essere più importante rispetto alla norma. Quindi magari bisogna utilizzare un colluttorio particolare, professor Lebrini, in questi casi, o non usare il colluttorio, insomma ci sono degli avvertimenti mirati? A questo punto usare dei prodotti con bicarbonato o con xilitolo mi sembra la soluzione migliore. Quindi queste sono le nostre parole chiave. Professor Iannoccari, buongiorno. Eccoci, buongiorno Nicoletta. Io ho molti ascoltatori che mi hanno scritto al 349-238-6666. Pochi si sono così in qualche modo misurati all'800-24-0024. Allora, una rattina sgambettava di qua e di là sulla schiena del re della savana mentre lui fa la siesta, ci scrive Ada. Ada è stata straordinaria, bravissima. Però deve sceglierne, perché io posso, dato che sull'alfabeto non abbiamo avuto, mi sembra, dalla regia, no? Allora leggiamo, io ne leggo un po', Un muride correva su e giù sulla schiena di una pantera L, non lo so, incapace di svegliarsi, questo mi scrive Ernesto. Una pantegana andava su e giù sulla schiena di una felina che russava, Silvia, ci scrive. Poi il re della giungla dormiva mentre un animale passeggiava sulla sua schiena, ha scritto Mariella, però non è Mariella si è sforzata a metà, insomma, perché non si capisce quale sia. Invece, più breve, ma insomma, dal topo è diventata la cavia, una cavia zampettava sulla schiena della belva rilassata. Di queste tre, che cosa le piacciono? Di queste tre? Cinque forse, ne ho lette, altro che... Sì, me ne lette cinque. Allora, ci sono dei sinonimi che non sono proprio tali. Per esempio, pantera non è sinonimo di leone, così come animale non è sinonimo di topo, così come felina non è sinonimo di leone. Vabbè, ma una me la passi. È la prima. La prima. Una rattina sgambettava di sì. qua e là ad ada, diamo i segreti per parlare e capire il linguaggio del corpo. Ma un attimo, abbiamo Rachele da Brescia. Rachele! È la penultima che ha detto, me la... Rachele? Quella che sgambettava, mi sente? Sì, stiamo chiudendo. Quella che sgambettava. E lei la sgambettava. Allora, anche a Rachele il libro, Il cervello compassionevole. Saluti a tutti, devo chiudere. Grazie professor Iannoccari, professor Lebrini, a domani. Grazie. Essere e benessere.